falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Salve maestro Ruggeri, sono Piotto, Raffaello Piotto di La Spezia, e sono contento che voi abbiate accolto la mia richiesta di parlare nella vostra trasmissione di Giovanni Battaglin, un ciclista degli anni 70 e 80 che a me piacque e che seguì con grande passione e attenzione. Grazie a te Raffaello, ormai c'è una simbiosi tra me e gli ascoltatori, cioè, mi leggono nel pensiero, perché questa è una delle tipiche storie che adoro raccontare. È la storia di un combattente, uno che non si è mai tirato indietro, ha guardato negli occhi più grandi e qualche volta ha dovuto ingoiare qualche boccone amaro. Oggi costruisce biciclette da corsa, ma nel mondo del ciclismo è ricordato per avere compiuto imprese eccezionali, e lui lo spirito del combattente lo subisce già a livello anagrafico, cominciando dal suo cognome, perché stiamo parlando del grande Giovanni Battaglin. Gli scacchi, perché siamo a Marostica. Marostica è una città di 14.000 abitanti in provincia di Vicenza, in cui ogni anno si svolge la celeberrima partita a scacchi con personaggi viventi, un evento in costume medievale che rievoca la disfida amorosa tra due signori locali che nel 400 si contesero in questo modo l'amore di una donna. È uno spettacolo famoso nel mondo. Marostica è famosa anche per le sue ciliegie, per le sue aziende, e perché siamo nel cuore del produttivo nord-est, ma c'è una azienda in particolare che esporta i prodotti in tutto il mondo, è un'azienda di biciclette da corsa, è stata fondata nei primi anni 80 proprio da Giovanni Battaglin. Guardate Merckx, la sua rimonta finale straordinaria. Quel giorno vennero espulsi dal giro per traino tre campioni come Italo Ziglioli, Gianni Motta e Franco Bitossi. No, si aggrapparono le auto per reggere il ritmo impossibile imposto da lui, da Eddie Merckx. Merckx, Motta, Zilioli, Bitossi, naturalmente Gimondi, insomma, chi è stato bambino negli anni 70 ricorda uno dei giochi più praticati in spiaggia, che era quello delle biglie. Si preparava la pista e poi via a giocare, ognuno con la sua biglia, che era metà colorata e metà trasparente con la foto di un ciclista dentro. Adesso abbiamo sentito un ricordo del Giro d'Italia del 72, in cui Merckx va a vincere. Merckx, che viene chiamato il cannibale perché non lascia mai niente da vincere agli altri. Quell'anno trionfa lasciandosi alle spalle uno scalatore, uno di quelli che danno il meglio di sé nelle salite. Merckx e Fuente sono i due idoli di Giovanni Battaglin, che ha solo 21 anni e ha iniziato a correre in bicicletta solo da 4 anni. Respiro mi sale, ma non mi potrò fare. Giovanni Battaglino, un veneto coriaceo ma espansivo, uno di quelli che se c'è da fare una cosa si mette con la testa bassa, lavora per raggiungere il suo obiettivo. Nel 72 è ancora un dilettante, partecipa a quello che viene chiamato il Giro Baby, che in realtà è il giro per dilettanti. Non ci pensa due volte, si porta a casa la vittoria con facilità impressionante. Da quel tipo di giri sono venuti fuori molti campioni che hanno dominato la scena ciclistica italiana. L'anno prima, per esempio, aveva vinto Francesco Moser. Nel 92 il giro per dilettanti lo vinse quello che oggi è considerato un campione tra i più importanti dell'ultimo ciclismo italiano, cioè Marco Pantani. Ed eccoci con le telecamere fisse. Marco Pantani sta portando a termine in maniera trionfale questa quindicesima tappa, che ci rimarrà nel cuore, nel cervello, perché è stata veramente una tappa splendida, una tappa nella quale, ripetiamo, Marco Pantani ha dimostrato non solo tutta la sua classe, ma la sua saggezza tattica, il suo cuore e il suo coraggio, perché per attaccare a 40 km più o meno dalla conclusione, a 50 km dalla conclusione, bisogna avere nervi saldi, cervello fresco e grandi gambe. Questa era la storica voce dell'immenso Adriano De Zan, quello che ha fatto amare il ciclismo a una generazione e anche a più di una generazione. E parlava di Marco Pantani, uno scalatore, così come Giovanni Battaglin. Essere uno scalatore è una vita particolare, intanto hai un fisico particolare, un'attitudine particolare alla sofferenza, ci vuole una forza non solo fisica ma anche e soprattutto mentale. Battaglin dimostra da subito di avere delle ottime gambe, va a correre dopo aver vinto il Giro d'Italia per dilettanti, va a correre con i professionisti e ha subito la sua occasione. Parte il Giro d'Italia, è il 18 maggio del 73, parte come spesso accade dall'estero, dal Belgio, e sono gli anni in cui il Belgio ha il dominio assoluto del mondo del ciclismo, perché oltre a Merckx ci sono De Vlaeminck, c'è Sercu che è un velocista prestato anche alla strada, insomma sono solo tre dei grandi campioni che si alternano nelle vittorie di tappa di questo giro, dominato da Eddy Merckx, che indossa la maglia rosa dalla prima all'ultima tappa. Merckx, con la sua potenza, sa mettere in difficoltà anche gli scalatori sulle salite. Solo Battaglin riesce a resistere nella scia di Eddy Merckx, poi anche lui deve arrendersi. E il belga, le cannibal, come dicono i francesi, parte per un'altra avventura solitaria. A braccia alzate sul traguardo, si aggiudica ancora una tappa e aumenta il vantaggio in classifica. Battaglin tiene testa al cannibale da esordiente. 1973 se la gioca fino all'ultima tappa con i due grandissimi campioni Merckx e Gimondi. Battaglin arriva terzo in classifica generale, ma ha una tattica diversa da quella di Gimondi. Gimondi aspetta nella speranza che Merckx abbia un cedimento, almeno in quel giro, perché altre volte lo attaccherà e come. Battaglin attacca il belga, lo guarda negli occhi anche durante la corsa, lo sfida, è una grande prova di carattere, tanto per dirla come la diciamo noi, un colpo d'ala proprio agli esordi. Nello stesso anno Battaglin vince il Giro del Lazio, che ha visto per tre volte sul podio gente come Gino Bartali, insomma chi si fa notare al Giro del Lazio, si dice, lo ha vinto anche Moser, si dice che abbia il destino già scritto, perché è una corsa impegnativa, chi vince dimostra di essere un ciclista completo, dotato di forza e resistenza, e quindi con un propizio domani. Il Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Giovanni Battaglin, un combattente della bicicletta. Siamo appena al primo anno da professionista, al 73, quando lui debutta al Giro d'Italia e arriva terzo dietro a Merckx e a Gimondi, poi vince il Giro del Lazio, l'anno dopo vince il Giro degli Appennini. È una corsa che parte in Piemonte, va in Liguria, quindi gli scalatori possono esprimere tutto il loro potenziale. 2 minuti e 36 sul secondo arrivato, e il nuovo record della gara e i giornali titolano: Battaglin mette tutti KO, è un ragazzo con le gambe buone, non ha paura di nessuno. E nel 75 si presenta di nuovo al Giro d'Italia. Questa volta non è un esordiente, se lo ricordano tutti quello che ha fatto 2 anni prima con Merckx, e anche lui pensa che se tutto gira nel modo migliore il Giro se lo può portare a casa. Conquista la maglia rosa nella cronometro di Forte dei Marmi in pianura, poi c'è una tappa di montagna che arriva dopo un giorno di riposo. Gli allenatori sbagliano, gli fanno provare la salita del Ciocco che lui conosce bene e quindi gli stroncano le gambe invece di farlo attendere per portarsi verso il momento propizio, ma ce lo racconta lui stesso. C'era la tappa di riposo, io dovevo fare, ero un ragazzotto, ero molto magro, avevo bisogno di avere una giornata di relax, sciogliere i muscoli, invece abbiamo provato il Ciocco, ma io lo conoscevo già, non serviva che andassi a vederlo perché l'avevo fatto in ricognizione mesi prima. Ho imbastito ancora di più la gamba, quindi il giorno dopo io ero come incatamato, ho perso la maglia per 2 secondi. Però ero più che altro dispiaciuto dell'atteggiamento della squadra che ho avuto, i miei compagni che hanno avuto non aspettandomi e facendo una corsa dispendiosa. E così partono degli anni un po' più difficili. Dal 75 al 78 ci sono vittorie, belle partecipazioni al Tour de France, però ogni tanto Battaglin ha degli inspiegabili crolli fisici oppure degli acciacchi che ne condizionano il rendimento. Per evitare di finire nei soliti luoghi comuni, siamo negli anni 70, la realtà del ciclismo professionista mondiale è ben diversa da quella che siamo stati abituati a vedere negli ultimi 2 decenni, con le terribili e malaugurate vicissitudini di Pantani, di Armstrong, di Bjarne Riis e di tutti gli altri corridori che sono stati coinvolti in vicende di doping. Il ciclismo vive ancora un genuino senso della fatica che deve far parte del gioco, non è un ostacolo per avere prestazioni al di sopra della norma solo per attirare pubblico e sponsor. C'è però un certo comportamento dei medici che somministra le normali medicine anche ai corridori senza pensare agli effetti collaterali che si scatenano in conseguenza di uno sforzo fisico. Noi ci appoggiavamo al dottore quando c'era la mattina prima di correre, se c'era a fare qualcosa, venivano a prenderci la pressione, veniva a controllare se eravamo a posto, se avevamo dormito, eccetera. Poi se c'era da fare qualcosa perché c'era una tappa difficile, eccetera, un supporto, qualcosa, ti davano loro, però non si sapeva mai cosa ti davano perché eravamo un po' ingenui anche su questo. Oggi invece è diverso, è tutto più preparato. Noi eravamo nel ciclismo, io dico ancora ciclismo antenato, rispetto, sapevamo che non si doveva prendere perché il doping era l'anfetamina, quindi non sapevamo che c'erano i controlli, quindi non si poteva scherzare. Un'immagine abbastanza inedita che lui che cerca di vincere una tappa addirittura in pista e va in fuga con il campione del mondo Gerry Knetteman. Guardate la maglia, qui c'è Félix Lévitain che va da Battaglin, la maglia qua mitica, era i primi anni che c'era questa maglia qua. Beh, queste sono le voci di trasmissioni mitiche come il processo alla tappa che negli anni 60 e 70 vedeva convergere personaggi come Mario Soldati e Montanelli che interagivano con magari Vito Taccone o con Dancelli. E intanto siamo nel 79. Il 79 per Giovanni Battaglin è un anno importante perché in quell'anno avvengono colpi d'ala, come diciamo noi, colpi d'ala positivi, negativi, che portano in primo piano il corridore di Marostica. Va al Tour de France, dimostra che è di nuovo in gran forma, ha cambiato squadra, ha cambiato ambiente, forse ha cambiato anche medici, vince alcune tappe, conquista la maglia Pua riservata al miglior scalatore e si piazza 6° nella classifica generale, e al Tour de France non è poco. Penso che quel periodo sia stato il periodo più ricco di campioni di tutta la storia, penso, perché da cominciare da Eddy Merckx, Gimondi, ma in Italia avevamo 30 campioni come a livello quasi di Gimondi, quindi il Belgio ne avevano un'infinità anche loro, la Spagna da Fuente, Galdos, ce n'erano tanti, la Francia, Thévenet, Poulidor, io posso con tutti questi corridori, Ocaña, Zotmelk, ce n'erano, l'Olanda ne aveva anche questi, molti. È stato il periodo più ricco secondo me dal punto di vista. Eh sì, purtroppo c'è da dire che il livello umano tecnico del ciclismo negli anni 60 e 70 era meravigliosamente alto e anche tutto sommato più limpido, e quindi è difficile, sarà difficile per il ciclismo oggi ripetere quei fasti. Comunque, in mezzo a tanti campioni c'è sempre lui che pedala con le sue gambe potenti, ha uno stato di forma eccezionale, vince diverse gare, il trofeo Matteotti a Pescara, la Coppa Piaci, la Coppa Agostoni. Beh, anche lì Battaglin non si risparmia, come racconta in uno speciale Rai il giornalista Beppe Conti. Pensa che in una di queste gare, la Coppa Agostoni, era in fuga da solo dietro Moser, Saronni e tutti gli azzurri, Martini andò a fermarlo e digli: molla un po', Giovanni, perché stai andando troppo forte, ai 3 minuti di vantaggio, non umiliare gli altri azzurri, talmente andava. Con tutte queste prestazioni, uno stato di forma perfetto, Battaglin si presenta all'appuntamento del mondiale. Siamo in Olanda, la terra dei tulipani, siamo a Valkenburg, e lui è sicuro di ottenere la vittoria, la maglia iridata che lo consacrerebbe il miglior ciclista del mondo, che è l'obiettivo che ogni corridore sogna. Siamo a poche centinaia di metri dall'arrivo e sono scappati in quattro. C'è Battaglin e ci sono altri tre corridori. C'è l'olandese Jan Raas, c'è il tedesco Thurau e poi un comprimario che è il francese Bernardou. Battaglin è sicuro di farcela in volata, scatta e poi accade una cosa che nessuno si aspetta. È un avvenimento che farà passare alla storia questa gara con il nome di truffa dei tulipani e darà il colpo d'ala negativo a Giovanni Battaglin. È un contrattempo che servirà da spinta al resto della sua carriera. Restate con noi e tra poco vi racconteremo la truffa dei tulipani. Raccontando la storia di Giovanni Battaglin da Marostica, provincia di Vicenza, una vita piena di colpi d'ala, di ascese e di cadute. Stiamo parlando di uno dei più grandi ciclisti, soprattutto degli anni 70. Nel giro del 73 attacca Eddy Merckx guardandolo negli occhi, attacca il più grande campione di sempre. Una storia, quella di Battaglin, che abbiamo voluto raccontare grazie alla segnalazione di un ascoltatore, Raffaello di La Spezia. Ho scelto Giovanni Battaglin perché è stato un grinter, uno scalatore che ha percorso le salite più importanti dei vari Tour de France, Giro d'Italia e Vuelta de España, e io mi sono provato nel mio piccolo a imitarlo nella sua tecnica di scalatore, pur non essendo leggero ma molto pesante in rapporto a lui, e quindi ho anch'io frequentato alcune delle salite più belle, più importanti, che sono comprese fra i Pirenei, il Mont Ventoux, le Alpi Svizzere, le Alpi Austriache, Italiane, l'Appennino fino giù al Gran Sasso, e ovviamente è un piacere avere qualcuno da imitare del suo pregio. lui era cristallo puro. Beh, Raffaello di La Spezia, cristallo puro, qui rischi di portare via il posto a me e ai nostri bravissimi autori. Complimenti e grazie. Siamo rimasti alla truffa dei tulipani, siamo rimasti a Valkenburg in Olanda nel 1979 e siamo a un arrivo in volata, ve lo ricordo ancora, sono scappati in quattro, c'è Bernadon, francese, ma soprattutto ci sono loro tre, l'olandese Rass, il tedesco Thurau e Giovanni Battaglin, e siamo nel rettilineo finale. È Rass comunque che vince davanti a Chalmel, a Thurau, poi ecco l'altro francese. Battaglin è caduto, ecco Battaglin che sta sopraggiungendo. Siamo arrivati alla volata, sono partito, ma nel momento che sono partito, che l'avevo affiancato alla metà, ha cominciato la sbandata da sinistra a destra, portandomi contro le transenne quasi dall'altra parte, sulla parte destra della strada. A un certo punto mi aggancio alle transenne o mi aggancio a lui, ho stretto, con la ruota anteriore sono andato dentro nel pedale di Rush e poi sono crollato a terra e sono fermo ai 75 metri d'arrivo. Sì, un finale incredibile della gara, la truffa dei tulipani, Rass e Thurau che con una scorrettezza piratesca hanno chiuso la strada di proposito a Battaglin e lo hanno fatto cadere. Peraltro ci sono dei regolamenti nel ciclismo che impongono che durante la volata uno debba mantenere una direzione, non muoversi a sinistra o a destra per evitare collisioni e soperchierie nei confronti magari dell'avversario che sta rimontando. Però non sempre i giudici anche nel ciclismo sono puliti e quindi Rass e Thurau se ne approfittano e sembrano dimenticare della più elementare regola di correttezza sportiva. Vediamo che Battaglin si lamenta, è veramente conciato molto male. Cos'è successo Giovanni? Rass che spiegando tutto Battaglin, c'è un tifoso con bellicosi propositi, tu pensi che Rass lo abbia fatto apposta? Non lo so questo, so che stavo rimontando, ero partito con la volata e che lui mi ha sbandato e non ho potuto evitarlo perché ha fatto una sbandata di 2 metri, quindi non ho potuto evitarlo. Fatto apposta sì, anche se non era il caso di ammazzarlo come ha gridato il tifoso, ma è stata veramente una brutta pagina. Battaglin si rialza e, come bisogna fare nella vita, riprende a correre cercando di dimenticare l'accaduto, torna, vince la Milano-Torino, la Coppa Placi, poi di nuovo terzo al Giro d'Italia che viene vinto dal bretone, da Bernard Hinault, che è l'astro nascente del nuovo ciclismo. Battaglin è tornato in forma, si sente ancora più forte perché quando si subiscono dei colpi d'ala negativi e bisogna cogliere da questi avvenimenti gli elementi per reagire e tornare a essere ancora più forti. Così è la vita e così bisogna fare quando si vuole reagire. Siamo nella primavera dell'81, i tulipani di Valkenburg sembrano essere stati dimenticati, bisogna guardare oltre. Battaglin partecipa alla Vuelta, il Giro di Spagna, che da quando esiste è stato vinto solo 2 volte dagli italiani, nel 56 con Angelo Conterno e nel 68 con Felice Gimondi. Siamo in Spagna e però nel febbraio dell'81 avviene un fatto molto grave in Spagna che le televisioni di tutto il mondo stanno documentando. Vedete, ecco, arriva un uomo armato, è il tenente colonnello Tejero, che ordina di stare fermi. Ecco, ci sono le prime reazioni dei deputati. Vedete, il primo a reagire è il vicepresidente del Parlamento, PR. Avete sentito delle esplosioni? Questo era il sonoro del tentato golpe del colonnello Antonio Tejero, che fa tornare alla memoria agli italiani il golpe borghese del 1970. La Spagna vive un momento molto delicato della sua storia, perché tornano a aleggiare, insomma, i fantasmi del appena terminato franchismo. Dopo qualche mese parte la Vuelta e c'è una tensione nell'aria, un certo disinteresse attorno alla corsa, ma l'attenzione torna quando le televisioni spagnole si accorgono che c'è un italiano di Marostica che quel giro, quella Vuelta, la sta dominando. Siamo andati lì, mi sono preparato bene, perché ho fatto un mese che io e loro ci siamo allenati come le iene, perché si partiva alle 8 mattina e si tornava alle 4 e mezzo del pomeriggio. È arrivata la cronoscalata Granada Sierra Nevada, dove gli ho dato una strapazzata a tutti con oltre due minuti, quindi ho preso le maglie e da lì sono andato fino all'arrivo e ho vinto la Vuelta. Il mercoledì c'era la partenza, finito la Vuelta, il mercoledì c'era la partenza del Giro d'Italia. Eh sì, perché sono anni in cui il calendario del ciclismo è molto serrato, per cui in genere o fai la Vuelta o fai il Giro d'Italia. Battaglin vince in Spagna e tre giorni dopo è già a Trieste per la partenza del Giro d'Italia. È un po' una follia, anche perché molti si ricordano del crollo del Ciocco e pensano che Battaglin non possa farcela con i ritmi serrati di una nuova corsa a tappe. Però Battaglin, tappa dopo tappa, mantiene il contatto con le prime posizioni, attende il momento giusto per affondare l'attacco alla maglia rosa, perché si stanno avvicinando i tapponi di montagna e lui è uno scalatore in montagna, sa che può fare la differenza. Così alla ventesima delle 22 tappe Battaglin sferra il suo attacco. Battaglin in testa al gruppo degli inseguitori, siamo all'ultimo chilometro con un tandem svizzero al comando, Pete Broye e Josef Fuchs. Ecco Battaglin ha staccato sia Staroni che Prima, a un chilometro della vetta l'attacco di Battaglin. Ed ora aspettiamo Battaglin, eccolo qua Battaglin. Battaglin che conquista anche i 10 secondi, la buona scatta ancora Battaglin, la maglia rosa è ormai sua, scatta ancora, auguriamoci che nessuno lo ostacoli, che non ci siano incidenti in questo finale. Battaglin è terzo con un ritardo di 41 secondi, Giovanni Battaglin è la nuova maglia rosa del Giro. Sapevo che dovevo giocarmi il tutto, perché logicamente era l'ultima possibilità per poter vincere il giro. Come abbiamo attaccato la salita, ho cominciato a fare il ritmo, partito uno, partito l'altro, insomma io dovevo staccare Contini e Saroni, perché erano i due avversari più temibili, e quindi ho fatto la corsa non in quel momento, quando erano via i due ho dovuto fare la corsa per staccare loro e avvantaggiarmi, e così è stato, a furia di scattare eccetera ho dato 3-4 colpi, l'ultimo a staccarsi è stato Tommy Prim, e così poi sono andato fino all'arrivo e ho accumulato il buono e anche un po' di secondi, quindi mi è stato sufficiente per poi arrivare nell'arena vittorioso. Sulle tre cime di Lavaredo Giovanni Battaglin scrive la storia, perché conquista la maglia rosa, taglia vittorioso il traguardo di Verona a meno di 100 km da casa sua, da Marostica. Scacomato il re è lui, vuelta e giro in meno di 2 mesi, una coppiata che nella storia era riuscita solo a lui, a Eddie Merckx. Proprio quando Battaglin sembra avviato a trionfi ancora più grandi, ecco tornare il colpo d'ala negativo che ridimensiona le ambizioni del campione veneto, che in gran parte è danneggiato da una buona dose di sfortuna. Giro dell'Etna, 1 aprile 1982, 600 metri all'arrivo, inizia la bagarre per la volata finale. Battaglin è stretto a lato, tocca un marciapiede, cade, risultato 9 fratture, clavicola, costole. Al campione è già successo altre volte, ma da questa caduta Battaglin non si riprenderà più come prima, inizierà una parabola discendente che lo convincerà al ritiro soltanto 2 anni dopo, nell'84. Poi dopo un anno ho preso anche le partite al Giro d'Italia, ho preso anche le partite alimentari, quindi i risultati, poi ero abituato a vincere 10-15 corse all'anno, quando ne vincevo 2-3 mi sentivo un po' in disagio e quindi ho voluto dedicare più tempo alla mia attività. E l'attività si chiama Battaglin Cicli, l'azienda che produce biciclette da corsa e mountain bike, perché il Giovanni, come lo chiamano in azienda, ha avuto un grande intuito quando ha capito che quelle strane biciclette con le ruote dentate che servivano ad andare fuori strada sarebbero diventate un successo. E così si è messo a costruire mountain bike professionali per le gare, diventando uno dei più importanti produttori del settore. Oggi sta sulla poltrona di pelle del suo ufficio e conserva ancora la voglia di inseguire obiettivi difficili, come quando stava in scia a Eddie Merckx. Ma ricordo, era un corridore che non mollava mai e lui voleva vincere anche se c'era da vincere una pagnotta di pane, la voleva vincere anche quella. Lui non mollava niente, diceva: io sono qui per correre, per vincere, non per regalare niente a nessuno. Difatti non perdonava nessuno. Lui quando era in gara non ce n'era per nessuno. Per me è stato sicuramente il più forte di tutti. E lo chiamavano il cannibale per questo. Bene, io voglio ringraziare Raffaello Dalla Spezia che ci ha spinto verso una storia così bella, e ringraziare Giovanni Battaglin per averci dato grandi soddisfazioni, soprattutto a quelli della mia generazione. Ha dato i colpi d'ala che noi andiamo a cercare anche col vostro aiuto, e se volete, come ha fatto Raffaello, darci dei consigli, fatelo scrivendo a il falco e il gabbiano chiocciola radio24.it o venendo a cercarci un po' dappertutto. Un saluto, un abbraccio, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti.